povera ministro Fornero, quante cattiverie dicono. Perché mi accusano sempre di essere dura, mi accusano di essere senza cuore, ma non è così. Il cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e